Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ci apprestiamo a passare assieme la settimana che precede il Natale. Giulio Caperdoni, Eclettica, e voi, eclettiche ed eclettici, all'ascolto assieme per 60 minuti ogni giorno, da lunedì al venerdì, fra le 19 e le 20, sulle frequenze di Rock FM. Non solo musica, ma anche tante, tante parole, le parole degli incipit che vi leggerò, le parole degli sprazzi cinematografici che sentirete, e parole anche da qualche opera discografica, come per esempio succederà quest'oggi all'inizio della seconda parte. Tutto questo per entrare nell'atmosfera di Eclettica, un'ora con cui staccare da tutto il resto. L'altra mattina ho attraversato il centro mentre da uffici e fabbriche la gente convergeva in Piazza del Duomo per i funerali degli assassinati. Mi è parso di non avere mai veduto una scena simile. Tra via Manzoni e Santa Margherita i portoni versavano gruppi fitti di impiegati che uscivano e si dirigevano verso la galleria e il Duomo. Pareva si stesse muovendo tutta la città. I negozi chiudevano, le banche abbassavano le saracinesche. Arrivavano a migliaia gli operai della zona nord, infagottati nelle tute che celavano i panni di casa, aggrondati in viso. Il freddo era molto duro, umido. Non ho voluto restare sulla piazza. Quando ho raggiunto Largo Cairoli, fra la folla che si accalcava sui marciapiedi, ho visto passare tre o quattro furgoni funebri diretti al nodo delle autostrade. Tra pochi giorni è Natale. Natale 1969. Milano è tutta illuminata e addobbata. I negozi in centro sono tutti sfavillanti. Un caffè al bar costa 50 lire. Al Teatro La Scala si rappresenta l'opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini e Cesare Sterbini, il barbiere di Siviglia, con un cast eccezionale, il maestro Claudio Abbado e gli interpreti principali, la bellissima donna della lirica italiana Teresa Berganza e il tenore peruviano, simpaticissimo, oltre che bravo, Luigi Alva. Al Cinema Rivoli si proietta il film di John Schlesinger, Un uomo da marciapiede. Una coda per vederlo. Tra l'altro è un film molto bello. C'è molto freddo, perché a Milano a dicembre fa freddo. Ma la gente, nonostante tutto, è in giro, c'è la tredicesima da spendere e così, se non si è in coda per vedere il film di Schlesinger, si fanno le classiche vasche tra Corso Vittorio Emanuele, Piazza del Duomo, Piazza San Babile. Ci sono i regali da comprare, è il penultimo weekend utile. Questo era l'incipit di Tra pochi giorni è Natale, di Antonio Carletti. Io possa essere dannato se non ti amo. E se così non fosse, thank you. Ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dagli spasimi. Sicura con L'apertura è stata con la bellissima cover di Domenico Modugno da parte di Paolo Benvenu, tanto apprezzata da chi ascolta questa trasmissione e lo fa sapere a Giulio @radiorockfm.com. Per proseguire poi con gli inglesi di Early Ears che hanno appena chiuso So Far Gone. Questo è stato l'inizio delle danze di quest'oggi e si prosegue proprio a ballare, nel caso abbiate la possibilità di farlo, con la nuova opera della band storica, sempre che questa per loro non venga presa come un'offesa, un'indicazione di età avanzata, band storica di nome Red Worms Farm. Dico questo perché sono sì solo al terzo album, ma è la loro ottava pubblicazione, se contiamo due compilation, due split e un primo EP del 2000, sempre che si possa definire storica una band che esiste appunto da 7 anni. Red Worms Farm, che ricordiamo sul retro di copertina di Amazing come tre bambini che bevevano una bottiglia di veleno. Ecco, ora i bambini sono cresciuti e sono diventati un cane, un gorilla e un serpente. Cane, gorilla, serpente è il titolo del terzo album della formazione, inciso per Infecta, Suoni e Affini, dal quale vado ad estrarre Beastie. Sette chilogrammi di esplosivo, azionati da un timer. Sono compressi in una cassetta metallica, inserita dentro una 24 ore in simil pelle nera, che è stata messa sotto ad un tavolo ottagonale nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, in Piazza Fontana numero 4, in pieno centro a Milano, venerdì 12 dicembre 1969. Ore 16:37. Nonostante l'ora, la banca è aperta. Oggi è giorno di mercato. È un appuntamento classico per i clienti della banca, gente della provincia contadina lombarda e piemontese. La banca conosce le abitudini dei suoi clienti, quindi il venerdì pomeriggio alle 4:30 è ancora aperta. In Piazza Fontana c'è il mercatino degli agricoltori. Siamo alla fine degli anni 60. Il contadino è ancora un contadino e vive con l'unica cosa che possiede, la terra. Nel mio immaginario cittadino, il contadino di quel tempo è una persona grande, carnagione scura, viso solcato da molte rughe, mani grosse come pale e rovinate dal duro lavoro, diffidente e che si fa un mazzo così. Avendo un'attività, perché coltivare la terra è un'attività, in banca bisogna andarci. La tecnologia comincia a muovere i primi passi e anche loro si devono adeguare ai tempi. Il tavolo al centro del salone serve per poter compilare dei moduli e andare poi in coda allo sportello. Chi ha organizzato l'attentato è consapevole. Il luogo, il giorno e l'ora sono perfetti. Perfetti per una strage. Questo era l'incipit di Tra pochi giorni è Natale, di Antonio Carletti. Thank you. Good evening. Evening. You look very nice. Thank you. Would you like... would you care to... I love you. Siamo appena ascoltati in sequenza due dei migliori nomi passati per la prima volta la scorsa settimana qua all'interno di Eclettico, ovvero sia prima Queen Walker e poi il duo italo-tedesco Urg Riots. Per i dettagli che avevo detto in onda a riguardo di questi due nomi, come al solito vi rimando al podcasting che vi permette di recuperare tutte le trasmissioni di Eclettico. I dettagli su myspace.com/eclettico oppure su radiorockfm.com. Voglio creare un'atmosfera natalizia che sia la più varia possibile, che vi faccia comunque pensare, come le parole del testo che sto leggendo per esempio quest'oggi, ma che vi faccia anche sognare, ritornare un pochettino bambini, magari con la musica, con una serie di canzoni natalizie che però vogliono essere sempre nello spirito di Eclettica, come quella che sta per arrivare di un gruppo newyorkese di nome Robbers on High Street, canzone che si intitola Season's Greetings. just like you for my heart.